Dunque, procediamo con queste audio lezioni che cercano di supplire in qualche modo la mancanza del contatto del visu, anche se come è noto io non sono un oratore particolarmente ammaliante e avvincente, ma insomma farò del mio peggio. Dunque, Inferno, canto 26esimo, il celebre canto di Ulisse. Ulisse si trova all'inferno non per l'atto di grande hubris, di grande superbia intellettuale e conoscitiva consistente nell'aver varcato le colonne d'Ercole, bensì è collocato all'inferno per via dell'inganno del cavallo di Troia. Inganno del cavallo di Troia che era. Ecco, Dante ovviamente non poteva leggere i poemi omerici nell'originale, ma questo tema dell'inganno del cavallo di Troia si trovava anche nell'epica medievale, nel ciclo classico delle canzoni di gesta e anche in alcune riletture prettamente medievali, provenzali, ecco, nelle chanson de geste di questo episodio. Ad ogni modo, l'aspetto che viene effettivamente sottolineato da Dante non è tanto quello dell'inganno di Ulisse come scelerum inventor, no? Secondo la definizione che ne davano gli autori classici, ma piuttosto l'immagine dell'eroe che è animato da una libido sciendi, un desiderio di conoscenza, proprio il desiderio di conoscenza, il desiderio che io ebbi a divenir del mondo esperto e degli vizi umani e del valore. Questa pulsione epistemofilica, come viene chiamata dalla psicologia, la pulsion de savoir, come la chiama Jacques Lacan, il grande psicanalista francese, con questa pulsione di sapere, questo desiderio di conoscenza, è una delle, anzi la pulsione essenziale dell'uomo, accanto a quella sessuale, ovviamente, no? Libido scendi, la libido si manifesta non soltanto attraverso la conoscenza carnale, ma anche attraverso la conoscenza intellettuale. Noi facciamo molta fatica ad immedesimarci con questa pulsione, con questo desiderio di conoscenza spinto addirittura fino al rischio della morte, perché no. In passato era la pulsione sessuale che veniva repressa e veniva casomai incoraggiata la pulsione di sapere o l'anelito mistico. Oggi è un po' il contrario, viene esasperata forse la pulsione carnale e viene invece deprezzata così il desiderio di conoscenza che pure è ugualmente innato ed essenziale nell'uomo, se ci pensate, no? O almeno dovrebbe esserlo. Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza, sono probabilmente sono fra i versi più celebri e più spesso citati del poema, e sintetizzano proprio questa idea fondamentale, secondo la quale l'uomo trova la propria dignità e la propria realizzazione precisamente nel desiderio di conoscenza, questo concetto di bruto, cosa vuol dire, no? Fatti non foste vivere come bruti. Il bruto, una volta si diceva il bruto per indicare, no? Un uomo che andava in giro di notte ed aggrediva le donne indifese, il bruto. Ma Dante intende bruto, questa parola che oggi non si usa quasi più, non si dice il bruto. Ma insomma. Ecco, Dante aveva in mente l'etica di Aristotele, l'etica nicomachea. Il bruto, come penso abbiate studiato, un individuo nel quale l'anima sensitiva, cioè la sfera degli istinti, ecco, prevale totalmente, anzi, sopravanza e quasi cancella del tutto l'anima razionale. Il bruto è colui che segue come bestia l'appetito, cioè il desiderio, la pulsione primaria. Beh, Ulisse non si faceva mancare nemmeno nemmeno l'appagamento carnale, era anche un tombeur de femme, ecco. Ma no, era, come è noto, animato da un inesauribile e inesausto desiderio di conoscenza. Tante arriva a recepire, forse attraverso Orazio che parla che accenna alla figura di Ulisse in un passo dell'Ars Poetica, se non ricordo male, dell'Epistola ai Pisoni. Dante arriva comunque a recepire questo aspetto della figura di Ulisse, pur non potendo leggere, come è ovvio, Omero nell'originale. Saranno, come sapete, Petrarca e Boccaccio a procurarsi per primi, proprio sul morire del XIV secolo, dei codici di Omero, ma anche di Platone e di Euripide. E pur non arrivando a padroneggiare la lingua greca, Petrarca e Boccaccio si faranno tradurre, ecco, si faranno tradurre i poemi omerici da Leunzio Pilato, questo letterato di origine, beh, non ricordo, comunque un letterato che era greco, madrelingua, dal carattere così aspro, bizzarro, dal latino piuttosto rozzo, purtroppo, tanto che la traduzione così interlineare, verbum e verbo, approntata da Leonzio Pilato, risultava priva di grande valore letterario. Sarà Emanuele Crisolora, esattamente nel 1399, a ricoprire la prima cattedra di greco nel mondo occidentale, no? E grazie a quell'insegnamento poi avverrà la riscoperta dei classici greci sull'originale, ma questa è una digressione che ci porterebbe troppo lontano. Beh, canto 26esimo dell'Inferno, verso 85. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi, mormorando pur come quella cui vento affatica. Lo maggior corno della fiamma antica, perché Dante, nel suo genio visionario, immagina che Ulisse e Diomede siano stati trasformati nelle due lingue di una fiamma, di un fuoco che si agita e parla. Ecco, un fuoco che parla, una lingua di fuoco che si agita e parla. Di fatto non c'è la presenza fisica dell'ombra di Ulisse, c'è questa fiamma in cui Ulisse si è totalmente trasformato, un fuoco che parla, forse proprio il fuoco della conoscenza, del desiderio di conoscenza. Abbiamo visto nel quarto canto dell'Inferno, della rappresentazione del limbo, quel passo fondamentale per capire Dante, ma perché non so perché gli studenti si ostinano a non capire, no? L'immagine straordinaria della sfera di fuoco che mi sperio di tenebre vincia, ecco, quella sfera di fuoco che non si capisce se sia sopravanzata dalle tenebre che la cingono, o se viceversa prevalga su di esse e le rischiari. Ma no, quel globo di fuoco che rappresenta la cultura classica, la conoscenza razionale, un sapere puramente umano. E quelle tenebre rappresentano il mistero, non si riesce bene a capire, in un'ambiguità testuale forse voluta, se sia il fuoco a prevalere sulle tenebre o viceversa, se siano le tenebre a cingere il fuoco e ad avvolgerlo e a sopravanzare su di esso. Le tenebre non prevalibunt, non prevarranno, come dice la Sacra Scrittura, ma in quel caso si tratta di una luce in senso religioso, in senso cristiano. Ad ogni modo, lo maggior coso della fiamma antica, no, questo fuoco che cominciò a crollarsi, mormorando, quindi cominciò ad agitarsi, mormorando come un fuoco che viene come insidiato e quasi oppresso dal vento che vuole spegnerlo. Indi la cima qua e là menando come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse, come fosse parlasse, disse, indi, no? Allora agitando da una parte e dall'altra il vertice della fiamma, come se fosse una lingua che parlava, mandò fuori la voce e disse: questo è un fuoco che parla. E mi viene in mente adesso, non so se sia già stato notato, che nella Bibbia, proprio nell'Antico Testamento, nell'Esodo, c'è la famosa immagine del roveto ardente, anche quello è un fuoco che parla, ma all'interno di quel fuoco c'è Dio. È la voce della divinità, quella che parla in quel fuoco e dice: Ego sum id, quod sum, ma si potrebbe tradurre anche id quod est. Abramo che chiede a Dio: chi devo io riferire che tu sei? E la divinità gli risponde: io sono ciò che è, o forse colui che è, ciò che sono. Colui che sono, ciò che era, è e sarà. In quel caso il fuoco è una epifania, una manifestazione dell'essere. In questo caso non c'è niente di ontologico, di teologico, di metafisico, perché, come vedremo, il sapere di Ulisse è quanto mai umano e terreno, eppure la sua grandezza e nello stesso tempo la sua tragedia consistono proprio nella volontà di infrangere, di superare questi limiti, no? Si potrebbe quasi citare Hegel, no? La coscienza infelice di Hegel, la coscienza dell'uomo che deve rassegnarsi, eppure non sa e non vorrebbe rassegnarsi al fatto di non poter essere tutto, di non poter abbracciare una conoscenza infinita. Questo ad ogni modo, no, il naufragarmi a dolce in questo mare, dirà Leopardi, no, il mare dell'infinito, il mare invece qui che inghiotta alla fine la nave di Ulisse, un mare decisamente che non ha nulla di dolce, un mare amaro, finché il mare fu sopra noi richiuso, no? Questo inabissarsi della nave di Ulisse simboleggia quasi, no? Il naufragio, la catastrofe tragica di questo viaggio conoscitivo che vorrebbe prescindere da qualsiasi guida trascendente, fondarsi su una pulsion de savoir esclusivamente umana, e per questo destinata al naufragio, no? Come dirà Mallarmé, calme l'occhi si basciù dan desastro obscuro, no? Come un blocco di pietra quaggiù caduto da un oscuro disastro, e quella per Mallarmé era la tomba del poeta, quella lapide che non rappresenta il monumentum aere perennius di Orazio, non è un auspicio di sopravvivenza eterna, ma al contrario è semmai una perpetua manifestazione del nulla. Ad ogni modo, quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più di un anno là presso Agaeta, prima che sì, Enea la nomasse, quindi quando mi allontanai da Circe, che mi aveva strappato al mio viaggio, al mio cammino per più di un anno, e no, infatti non foste io come brutti, i compagni di Ulisse trasformati in bestie. C'era anche un significato morale. I padri della Chiesa, gli scrittori cristiani, a partire da Clemente Alessandrino nel Protrettico, avevano interpretato la figura di Ulisse addirittura come una sorta di alter Christus, Ulisse legato all'albero maestro della nave, un po' come Cristo inchiodato alla croce, Ulisse che riesce a resistere alla tentazione delle sirene. Allo stesso modo che Cristo dovrebbe rappresentare un punto di riferimento, una stella polare indefettibile per il viaggio di ciascuno di noi, ma ovviamente questo Ulisse dantesco non ha assolutamente nulla di cristologico. Ecco, no? Quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più di una la sua gaeta, prima che sia né dolcezza di figlio, né la pieta del vecchio padre, né il debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta. Qui bisogna, beh, qui si potrebbe leggere anche lo qual dovea Penelope far lieta. Alcune edizioni hanno l'accento sull'ultima sillaba. Comunque, ecco, noi abbiamo, se fosse una lezione in presenza, vi chiederei, ma dove abbiamo già incontrato un riferimento a questi versi? Ecco, il riferimento si trova in quella splendida epistola di Petrarca a Boccaccio. Petrarca che, parlando di Dante in latino, riecheggia proprio queste espressioni, come a suggerire che Dante, attraverso la figura di Ulisse, nella figura di Ulisse, avesse rappresentato in qualche misura se stesso, la propria smania, il proprio desiderio di conoscenza, forse anche la propria stessa pericolosa superbia intellettuale, perché il rischio della hubris, anche se Dante non la chiamava ancora così, non sapendo il greco, il rischio dell'arroganza, dell'eccessiva pretesa conoscitiva, questo rischio, insomma. Dante era consapevole di correrlo nel suo continuo sfiorare il dominio dell'eresia, no? La tentazione dell'averroismo incarnata dall'amico Cavalcanti, no? Guido Cavalcanti, amico, forse addirittura amante di Dante, si è ipotizzato anche questo, no? Alter ego, no? Anche se vogliamo, di Dante, quella superbia intellettuale del loico, come dice Boccaccio parlando di Cavalcanti. Ma ecco, quindi un desiderio di conoscenza nel quale consiste la dignità dell'uomo. Ma nello stesso tempo anche il pericolo di commettere un peccato, di scindere la facoltà conoscitiva dell'uomo dalla guida trascendente assoluta, no? Termine fisso di eterno consiglio, come dirà nell'ultimo canto del Paradiso. E anche in quel caso c'è una metafora di navigazione, se vogliamo, no? Maria Stella Maris, cioè la stella che guida, che dovrebbe guidare il cammino, o meglio la rotta, la navigazione dell'uomo, mentre il pagano Ulisse ovviamente era orfano di quella stella, non era guidato dalla stella della fede cristiana. Ecco, Ecco, quindi dice né l'affetto del figlio nei confronti del padre, né la pietà, cioè la pietas, bisogna leggere pietà per ragioni di rima e di ritmo, la pietas, no? Tipico valore classico, no? La devozione nei confronti del vecchio padre, né l'amore debito, dovuto, che avrebbe dovuto rallegrare Penelope, tutti questi valori che avrebbero dovuto tenermi legato a Loikos, alla patria, alla famiglia, insomma, tutti questi vincoli non poterono estinguere dentro di me il desiderio ardente, con l'ardore che io ebbi a divenire un conoscitore del mondo, divenire del mondo esperto qui, è straordinario, perché Dante, non conoscendo il greco, eppure per via quasi quasi telepatica, no? Quasi quasi quasi medianica, di fatto traduce proprio, ricalca molto da vicino quello che è l'incipit dell'Odissea, no? Andra moiene per Mausa Polutropo, Osmala Polla, c'è proprio, se non ricordo male, il verbo epaze, cioè era questa idea del pathos, no? Cioè, no, pathos, passio in latino, patior, experior, experiri, esperienza, esperto. L'idea della conoscenza come sofferenza, che pazzei mazos, no? Conoscenza attraverso la sofferenza, secondo la grande sapienza tragica dei greci, no? Ecco, dei vizi umani e del valore antitesi, perché conoscenza è conoscenza del bene, ma anche conoscenza del male, ovviamente, no? I vizi umani e il valore. Ma misime per l'alto mare aperto, misime, nel senso che, insomma, quasi gettai me stesso in questo viaggio alto, che significa profondo, anche colei che all'alto volo ti vestì le piume. Questo è riferito però nel paradiso al viaggio di Dante verso le sfere celesti, mentre il viaggio di Ulisse è, per antitesi, no? Un viaggio decisamente terreno, destinato non all'approdo fino alla visione divina, ma al contrario al naufragio, e sol con un legno, vabbè, che è tipica figura retorica, no? Un legno per dire una nave. Questa domandina fa pensare a quelle intollerabili putanate del testo Invalsi, no? La materia per l'oggetto, che figura retorica è, ma insomma, vabbè, e con quella compagna picciola dalla quale non fui diserto, bellissima immagine. Qui compagna significa compagnia, quel piccolo gruppo di compagni dal quale non fui abbandonato, non fui diserto, qui vuol dire, questa è un'espressione latineggiante, molto elevata, no? L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna, fin nel Morrocco, e l'isola dei Sardi, e l'altra che quel mare intorno bagna. Quindi, insomma, navigando nel Mediterraneo occidentale, no? La Spagna, la Sardegna, Spagna, Marocco, insomma. Io e i compagni eravamo vecchi e tardi quando venimmo a quella foce stretta dove Ercule segnò i suoi riguardi, a ciò che l'uomo più oltre non si metta. Questa leggenda delle colonne d'Ercole, come è ovvio, non c'era in Omero. Si è ipotizzato che la fonte di Ulisse sia di Ulisse, la fonte di Dante, per quanto concerne questa vicenda delle colonne d'Ercole, sia questa leggenda delle colonne d'Ercole, sia una fonte islamica, ad esempio, no, la storia generale di Alfonso X è il savio, Alfonso X il savio, anche, che era anche un grande scrittore intellettuale, riferisce questa leggenda del viaggio di Ulisse, al di là delle colonne d'Ercole. Questo viaggio in Omero non c'è. Io e i compagni eravamo vecchi e tardi. Ecco, dalla man destra mi lasciai Sibilia, dall'altra già mi aveva lasciata Setta, insomma, fra Siviglia, cioè fra la Spagna e l'Africa. O frati, dissi, che per 100 miglia perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia dei nostri sensi, che è del rimanente, non vogliate negare l'esperienza, dire esperienza, esperto, no? L'idea della passio, del pathos come conoscenza. Non vogliate negare l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Espressione rimasta celebre anche questa. Fratelli, no? Che attraverso 100.000 pericoli siete arrivati all'Occidente. Qui c'è un'espressione estremamente enigmatica: questa tanto picciola vigilia dei nostri sensi, che è del rimanente. E qui potrebbe alludere al fatto che resta poco da vivere. Cioè, il discorso sarebbe questo: siamo ormai vecchi, ci resta poco da vivere. Quindi non dobbiamo negare a quei pochi anni che ci restano la possibilità di compiere questa grande impresa, no? Ma la picciola vigilia dei nostri sensi, che è del rimanente, potrebbe alludere anche all'esiguità, alla brevità della distanza che ormai li separava. Anche materialmente, spazialmente, dalla possibilità di compiere questo alto passo, di varcare questo limite. No, quindi l'esperienza, cioè la conoscenza, anche insidiosa, anche azzardosa, anche inquietante, ma vitale, essenziale, del mondo senza gente, cioè del mondo spopolato, perché si pensava che al di là delle colonne d'Ercole ovviamente non ci fosse nulla. I fratelli Vivaldi avevano cercato realmente anzi, avevano navigato oltre le colonne d'Ercole, erano stati avvistati anche al largo delle coste della Spagna o del Portogallo, insomma, erano stati avvistati in mare aperto, insomma, nell'oceano, ma poi non se ne seppe più nulla, evidentemente naufragarono. L'impresa dei fratelli Vivaldi, ecco, era rimasta sotto certi aspetti precursori di Cristoforo Colombo, cioè, se vogliamo. Beh, loro non avevano in mente di navigare fino alle presunte Indie orientali, volevano solo andare a vedere che cosa ci fosse al di là delle colonne d'Ercole, ma naufragarono. Si è ipotizzato che proprio l'impresa dei poveri fratelli Vivaldi abbia suggerito a Dante questo mythos, che non davvero nel senso platonico di vicenda emblematica del profondo significato gnoseologico, ma può darsi che fosse stata ispirata proprio dall'impresa dei fratelli Vivaldi. Ecco, e qui c'è qui ci sono i versi, ma versi fra i più celebri in assoluto della letteratura, penso, mondiale, no? Considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come brutti, ma per seguire virtute e canoscenza. Alcune edizioni hanno conoscenza, ma la Lectio Difficilior è quindi quella più corretta, con tutta probabilità è canoscenza. Quindi, parola, diciamo, questa forma desueta, canoscenza, sottolinea la solennità del momento, di questa epoca. Questa che è una vera e propria gnome, come si direbbe in greco, cioè una frase estremamente concisa e pregnante, no? Considerate la vostra semenza, cioè considerate la vostra natura umana, la vostra condizione umana con la dignità che ne deriva. Qui viene in mente il concetto di dignità dell'uomo che verrà, come è noto, sviluppato da Pico della Mirandola, da Giannozzo Manetti, insomma, dai grandi intellettuali dell'umanesimo, ma si trovava già nella patristica, nel pensiero cristiano, o imago dei agnosce dignitatem tuam, nel sermo de Nativitate di Leone Magno. No, quindi, immagine di Dio, riconosci, agnosce, no? Qui c'è un po' una rilettura cristiana del noscet ipsum, del gnosti se auton, o imago Dei agnosce dignitatem tuam, cioè, immagine di Dio, tu uomo che sei immagine di Dio, riconosci la tua dignità, la tua dignità proprio che deriva dal fatto di essere immagine di Dio. Nel caso di Ulisse però la dignità non deriva dal fatto di essere immagine di Dio. Ulisse è un pagano, persegue una grandezza, un desiderio di conoscenza esclusivamente umano. I miei compagni feci ossia aguti con questa orazione picciola al cammino che appena poscia li avrei ritenuti. Con questa breve orazione, con questo breve discorso, io resi i miei compagni talmente desiderosi di compiere il viaggio che a malapena sarei riuscito poi a trattenerli. E qui si vede la straordinaria capacità oratoria di Ulisse che riesce con questo breve discorso a convincere i propri compagni. Dante non sapeva niente dei sofisti, non sapeva niente, sapeva poco attraverso le fonti latine, no? Dei sofisti di Gorgia, ma l'arte della parola, no? La Gorgia che dice la parola che è così piccola, così immateriale fra l'altro, no? Che cos'è la parola in fin dei conti, no? Flatus vocis, no? Eppure ha una grande potenza, una straordinaria potenza, che è anche una potenza tragica, no? È quasi una ananche tragica che era chiusa nella parola, la povera Elena, no? Nell'encomio di Elena di Gorgia, che no, fu o presa dall'amore o soggiogata dai bei discorsi, ecco, dall'arte della parola. Oggi l'arte della parola, no? Anzi, casomai, se uno si mette a fare un discorso minimamente complesso, tutti, parla come mangi, bene. Cosa stai a fare questi discorsi retorici? Ma pensa a goderti la vita, cosa stai lì a farti tante elucubrazioni mentali? Ma insomma, questi sono discorsi da cretini. Ma quante volte uno si sente dire, anche chi scrive, no? Non si capisce niente, fai queste frasi così. Erano altri tempi, decisamente. Ma no. Dice, e volta nostra poppa nel mattino, dei remi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino. Volta nostra poppa nel mattino, verso splendido nella sua semplicità, perché questa parola mattino di per sé riempie tutta la terzina di luce, di spazio, no? Anche di speranza che poi verrà crudelmente delusa. Dei remi facemmo ali al folle volo, anche questa immagine dei remi come ali è un'immagine omerica che a Dante arrivava attraverso Virgilio, ma Dante non lesse mai Omero, ma è quasi come se l'avesse letto, insomma, quasi come se per via telepatica avesse colto molti aspetti della poesia omerica. C'è uno spirito autenticamente epico, no? Proprio anche in questo episodio. È un po' come un epidio, no? Come si dice. Se fosse un poeta ellenistico si direbbe che ha scritto un epidio inserendolo alla fine di un suo canto. Ma ecco, dice, anche se ovviamente in Dante non c'è nulla del decorativismo alessandrino, non c'è il vano, vano, così questo puramente esornativo gusto della digressione erudita, o pseudo erudita, un po' come quelle che faccio io, ma così tanto per passare il tempo. Ma allora dice, no, e volta la nostra pompa nel mattino, dei remi faccio mali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino, cioè avanzando sempre verso la nostra meta. Tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte, e il nostro tanto basso che non sorgea fuor del marin suolo. Dice, nell'altro emisfero erano già spuntate, si vedevano già tutte le stelle nella notte, mentre il nostro tanto basso che non sorgea fuor del marin suolo. Questo esattamente significa, devo andare a guardare la notte anch'io, dice, erano ieri, la notte vedeva già. Di notte si vedevano già le stelle del polo antartico, e il polo artico era tanto basso che toccava l'orizzonte. Dice, 5 volte racceso e tante cassero lume era di sotto dalla luna, poiché entrati eravamo nell'alto passo. Quindi erano già passati 5 giorni e 5 notti, cioè avevano già visto la luna accendersi, illuminarsi e spegnersi per 5 volte, da quando avevamo intrapreso questo alto passo. Qui alto è una parola chiave, no? Questo alto passo che è elevato ma anche profondo, cioè questa vox media che evoca l'altezza, dei vertici, delle stelle, dell'Olimpo a cui dare la scalata, ma anche la profondità, nel senso dell'abisso, no? In cui poi Ulisse è destinato a sprofondare. Quando ne apparve una montagna bruna per la distanza, e parvemi alta tanto quanta veduta non aveva alcuna. Ecco, qui Ulisse vede il colle del Purgatorio. Questo monte che vede Ulisse altro non è che il colle del Purgatorio, che però Ulisse vede oscurato, buio, mentre Dante nel primo canto l'aveva visto vestito già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle, il sole della grazia divina, no? Il divinum lumen, su cui tanto insisteva Alberto Magno, maestro di Tommaso d'Aquino, insomma la luce divina che dovrebbe guidare l'uomo. Il cristiano Dante, anche se smarrito nella selva oscura, comunque la vedeva in lontananza, ancora da raggiungere, ancora da attingere, eppure la vedeva. Ulisse, il pagano Ulisse, no, vede quella montagna oscura, la montagna del Purgatorio, che rappresenta la redenzione, no? E quindi la speranza, anzi la certezza di venire quando che sia alle beate genti, come dice Dante. Ulisse, il pagano Ulisse, come del resto Virgilio, non ha questa possibilità, non ha conosciuto la rivelazione cristiana. Ecco, noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto, che della nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto. Questo turbine colpisce fianco della nave, 3 volte li fece girare con tutte l'acqua, la quarta levare la poppa in su, se la prora era in giù come altrui piacque, per 3 volte, un numero simbolico, no? Ovviamente per 3 volte come una manifestazione del Dio uno e trino che però qui agisce come un Dio punitore. 3 volte li fece girare con tutte l'acqua, alla quarta levare la poppa in su, e la prora ire in giù come altrui piacque, infinché il mar fu sovra noi richiuso. Questi versi non hanno nemmeno bisogno di una parafrasi, di un commento, È interessante soffermarsi su quel come altrui piacque. Cosa vuol dire come altrui piacque? Evidentemente come volle Dio, perché. E allora, cioè, e qui veramente concludo, nel modo più suggestivo, c'è cioè in Primo Levi un capitolo di Se questo è un uomo, dedicato proprio a questo canto di Ulisse. Primo Levi che, trovandosi ad Auschwitz prigioniero, in una pausa dei lavori massacranti, trova il tempo di parlare con un compagno di prigionia. Per non abbandonarsi alla disperazione, si mettono proprio a parlare di Dante. E Primo Levi cerca di tradurre in francese il testo di Dante, cerca disperatamente di richiamarlo alla memoria, perché in quel momento, in quella situazione, in quell'inferno, richiamare, riuscire a ricordare qualche verso di Dante come un modo per sentirsi ancora umani, no? Infatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. Il Lager voleva precisamente trasformare gli esseri umani in bruti. E allora, e Primo Levi dice, ecco, dovevo venire proprio nel Lager, dovevo venire ad Auschwitz per capire che cosa significa esattamente quel come altrui piacque. E forse proprio in quel come altrui piacque vi è, dice Primo Levi, il senso del nostro essere qui. No, Auschwitz è il luogo in cui non c'è perché. Quando Primo Levi chiede a una guardia nazista, perché dobbiamo fare questo, perché ci trattate così, la risposta è: qui non c'è perché. No, in tedesco il nazista risponde: qui non c'è perché. Cioè, tutto è insensato, tutto è privo di significato, di valore, di senso, come una sofferenza inutile, gratuita, che non è nemmeno una sofferenza redentrice. E quel come altrui piacque, no? Quella è una pagina in cui perfino nell'ateo Primo Levi sembra quasi filtrare un qualche spiraglio proveniente da una possibile sfera trascendente, come altrui piacque, insomma, deve pure esserci al di là della vita, al di là dell'orizzonte terreno, insomma, nello spazio aperto dell'eternità, deve pure esserci un senso anche per la sofferenza che pare di per sé così, così, irredimibile. Ecco. Beh, andate a cercare, se avete tempo e voglia, quell'emozionante capitolo. Basta cercare Primo Levi, Ulisse, Se questo è un uomo, Dante, mettete una parola chiave, una chiave di ricerca, così trovate facilmente cioè il testo di quel capitolo, che forse non, che rappresenta forse il miglior commento a questo emblematico canto, sul quale io ho così intessuto questi vani e rapsodici, direi, arabeschi. Statemi bene e a risentirci. E intanto, che Dio ci protegga.